No, prima di appunto accogliere, stavo dicendo che abbiamo premuto il tasto REC, quindi dichiariamo ufficialmente aperta la presentazione milanese di Oltre il Rumore. Grazie di essere Che si apre con un ringraziamento e io vorrei ringraziare e rendere omaggio pubblicamente a Antonio Pavolini che si è preso un bel rischio, devo dire, anzi si è preso molti rischi, innanzitutto perché ha deciso di pubblicare un libro, che di questi tempi voglio dire non è poco, e secondo perché ha deciso in un momento non tanto di rivoluzione, ma come ama dire lui, di trasformazione, ha deciso di mettersi all'incorso di tutta una serie di strade Ma tu dici che l'ho deciso o mi ci sono ritrovato? dopo ti spiego. In un momento in cui probabilmente, come tutte le trasformazioni, ci sono le cose che apparentemente dominano la scena da anni, se non da decenni, dove per esempio ci sono il grosso dei budget, il grosso dei patrimoni. E ci sono delle altre realtà un pochino più precarie, ma che sembrano piuttosto ben avviate. E si vedono da una parte dei decisori che, sulla scorta dei dati e di tanti comportamenti che hanno avuto nel tempo, proseguono nella buona gestione della loro decisione, per esempio piazzando dei budget pubblicitari su dei contenuti. E allo stesso tempo, però, questo meccanismo molto rodato comincia a perdere grip sulla realtà, comincia a perdere soprattutto di efficacia, comincia a perdere soprattutto di fatturato. Questo è un po' il tema principale. E quindi ci voleva qualcuno di molto coraggioso che facesse un po' le parti del mago Sgangherone, tra l'altro è in sala e ringrazio di essere venuto, e che quindi di fronte, per esempio, voi avete presente le prime macchine da scrivere, no? Che avevano i tasti che battevano al contrario su un foglio che, no? In effetti chi scommetteva dei soldi insomma, su questa tecnologia si prendeva dei rischi, però il tempo è galantuomo e in linea di massima quella poi era la strada che poi si è rivelata stabile. E quindi Antonio ha avuto il coraggio di fare questo. Ovviamente per farlo si è voluto un piccolo talismano, cioè ha preso una cosa che non c'entra niente per farsi da scudo. E quindi ha voluto che io, non so neanche perché facessi la prefazione di questo volume, io credo che il talismano possa essere un po' hai messo lo scudetto dell'Ascoli all'inizio del libro. È stata una No, è cosa. che io ho il terrore di cominciare con la mia prosa, che è stata la prima volta che ho scritto qualcosa di lungo, è stata paragonata alle più terrificanti descrizioni di Margaret Mazzantini, però applicate al business aziendale, quindi potete immaginare. Allora, l'idea di mettere qualcosa di vivace, perché lui ha una scrittura molto, Sì, no, molto ti vivace. taglio perché non parliamo né di me né della mia scrittura, ma parliamo almeno, io metto lì, diciamo, la tesi del libro, cioè, che poi è anche un po' di sottotitolo, cioè perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla televisione, perché sostanzialmente ci sarebbe non dico un reato, ma insomma un inghippo piuttosto piacevole, per cui chi come prodotto ha un messaggio, dici tu all'inizio del libro più o meno, e chi controlla per inciso il grosso dei budget diciamo del mondo editoriale in senso lato, ha la facoltà di proporre una narrazione, che è a tratti anche prevalente, in cui internet viene dipinta in un modo diciamo distorto. Questo non sarebbe dovuto, come alcuni pensano, a insipienza, a ignoranza o a sbadataggine, ma tu sostieni è dovuto a un più o meno cosciente volontà di rallentare un pattern che in qualche modo si imporrà. Vuoi discolparti per questa posizione? No, allora, cioè, credo che parlando di queste cose tra addetti ai lavori, chi lavora nei giornali, nelle agenzie, eccetera, ma poi è un po' come la nazionale di calcio, cioè ne parlano veramente tutti. Una visione molto, molto diffusa che io riscontro è quella di considerare i giornalisti che spesso attaccano il web come persone che non hanno capito quello che sta succedendo, no? Vedi Michele Serra, ah, vedi, non ha capito niente, non è vero, assolutamente. cioè sono giornalisti, figurati se persone che lavorano nel mondo dei media da 40-50 anni non hanno capito quello che sta succedendo. Scrivono queste cose proprio perché hanno capito quello che sta succedendo. Poi c'è questa cosa può fare scala e diventare davvero a sua volta uno strumento di infotainment. Se prendiamo questa GIF animata di Lily Gruber che io ho messo su Twitter, in cui lei dice fondamentalmente in una trasmissione in prima serata che Tiziana Cantone è stata uccisa da internet, e c'è questo titolo, Tiziana uccisa da internet, che dura per tutta la puntata. Voi pensate che una persona intelligente, capace e professionalmente che ha raggiunto il top della carriera come Lily Gruber non sappia quello che sta succedendo e soprattutto non sappia che internet non c'entra nulla con la morte di Tiziana Cantone? Lo sa benissimo, però essendo ormai, come dire, perfettamente aziendalista, cioè fa esattamente quello che deve fare per arrivare a ottenere i numeri che le chiedono, okay, organizza la trasmissione in questo modo, cioè consegna ai telespettatori il messaggio che loro, che lei sa che sarà il messaggio più popolare, perché è il racconto dominante. Tiziana Cantone è stata uccisa da internet. E invita in studio a parlarne, come rappresentante di tutti i possibili punti di vista, Paolo Crepetto, uno psicologo che da 20 anni dice che internet è Satana, e come rappresentante del mondo delle celebrity, in cui dovremmo forse identificarci in quanto rispetto a internet uomo della strada, l'unico attore che ha deciso, per problemi suoi, di non avere nessun account su nessun social, e cioè un bravissimo attore che si chiama Kim Rossi Stewart. Quindi il dibattito su questa tesi che appare nel news ticker per tutta la puntata, cioè che Tiziana Cantone è stata uccisa da internet e non dalle persone che hanno fatto delle cose turpi con la sua immagine, questa tesi non viene dibattuta, viene amplificata dalla celebrità e dallo psicologo che gli dà l'imprimatur scientifico. Lily Gruber pensa di saper fare del giornalismo quando fa questo? Ovviamente no, fa infotainment, che è il prodotto che funziona in televisione, e siccome la televisione ha un modello di business magari in calo, ma infinitamente ancora più funzionante di qualsiasi startup, è evidente, lei fa esattamente quello che deve fare. E quindi noi, quando pensiamo che questi giornalisti non hanno capito quello che sta succedendo, siamo perfettamente funzionali al grande gioco che appunto di questa narrazione dominante. Ma che poi forse è anche un po' più intricato di così, nel senso che c'è questo sottile confine tra informazione e intrattenimento, perché comunque il sottotesto di questa trasmissione è comunque di fare informazione, no? Oltre che questo è l'alibi per dire sto facendo informazione. Ma quello che voglio dire è che fondamentalmente si fanno dei prodotti per raggiungere una audience che si è scelta, per rassicurare questa audience, magari terrorizzando, usando dei contenuti terrorizzanti, ma paradossalmente servono a rassicurare chi ha bisogno di pensare che il pericolo sia perimetrabile, certo, dentro queste dinamiche sociali. E questo però sarebbe nulla se non fosse che il fatto di progettare dei contenuti e delle piattaforme, insisterei io, su queste audience, e porta con sé il grande malloppo pubblicitario. Io ho il sospetto che in realtà dirottare possibile dissenso su un pezzettino che è quello del budget pubblicitario alla lunga distrugga più valore di quello che va a intercettare. La domanda che ti faccio a te è: ma il fatto che sia alla lunga a queste persone che tra 15 anni andranno in pensione e prenderanno delle pensioni ricchissime, cosa vuoi che gliene importi? Cioè, ci sono due ragioni del persistere di questo racconto dominante. Una è macroeconomica, cioè è tutta una grande industria che ha fatto un rapido calcolo e ha detto: se io rallento, forse governo questo fenomeno in una lifespan. Ho poca benzina, faccio più strada possibile, perfetta metafora. Poi c'è invece la ragione microeconomica, cioè di solito il middle manager o anche il top manager, cioè il singolo grande professionista che lavora in questa grande industria, deve dire: mi piace questa strategia o no? Calcola i costi e i benefici. Beh, anche a livello microeconomico il professionista fa un rapido calcolo e giunge alla conclusione che gli conviene partecipare a questa grande operazione di rallentamento della transizione digitale, perché ne otterrà molti più vantaggi rispetto all'affrontare invece il cambiamento subito, che sarebbe drammatico perché comporterebbe non solo dire messaggi che vanno tutti contro, ma anche cambiare completamente dall'oggi al domani il modo di lavorare. Questo non succede soltanto nella comunicazione di massa, quindi per intenderci i personaggi dell'editoria, dell'intrattenimento, dell'informazione, ma anche nell'informazione istituzionale, aziendale, istituzionale in senso lato e così via. C'è questo calcolo che in alcuni casi è istintivo, ma è proprio il calcolo e la decisione finale di partecipare a questo rallentamento e quindi a questa narrazione, usando il prodotto stesso dell'industria, cioè i messaggi, no, questo calcolo lo può fare un professionista serio, bravo, che ha capito perfettamente quello che sta succedendo e non una macchietta come noi lettori, magari che pensiamo di essere moderni perché leggiamo Flipboard invece che aprire un quotidiano, pensiamo che tutti questi giornalisti sono dei ferri vecchi che non hanno capito nulla. No, hanno capito tutto ed è proprio per quello che lo stanno facendo. Ma se tu non sarai d'accordo, di qualcosa di sensato. Devo dire qualcosa di sensato? Sì. Ci provo. No, io ahimè sono d'accordo e mi ritrovo abbastanza nella descrizione che Antonio fa del racconto dominante sui mass media, perché è un po' il rasoio di Occam. Possiamo veramente credere che tutte le persone di grande esperienza, di grande talento, di grande competenza da 20 anni non abbiano assolutamente capito che cosa sta succedendo e continuino a comportarsi come, non lo so, lo scemo del villaggio, come l'imbranato? È abbastanza difficile crederlo. Cioè, possiamo pensare che magari qualcuno in un primo momento fosse accecato dalla difficoltà di interpretare un mezzo nuovo, un mezzo che sostanzialmente toglie potere a chi è in mano, i mass media. Tutta la storia, diciamo, dell'umanità può essere letta come una storia di un progressivo aumento della democratizzazione dei mezzi di produzione e di diffusione del sapere. All'inizio leggevano pochissime persone, scrivevano pochissime persone, questa cosa è durata fino a un minuto fa, e quindi l'era della stampa è stata una gigantesca democratizzazione del sapere, quando è stata inventata la stampa a caratteri mobili, ma comunque quando noi siamo nati, noi in questa stanza, c'era qualcuno che decideva cosa poteva essere stampato, cosa poteva essere trasmesso, cosa poteva essere distribuito, e noi che ricevevamo questa decisione. Il fatto che all'improvviso, alla fine degli anni 80-90, sia arrivato un mezzo che permetteva a chiunque di pubblicare qualcosa, e se intercettava il gusto, le attese, le aspettative di un pubblico, avere un pubblico quasi gratis, è chiaro. Cioè, possiamo anche spezzare una lancia a favore del non complotto, non vorrei definirlo un complotto, ma non è complottismo, ma cioè, sicuramente c'è stato un primo momento di grande disorientamento, perché io ho iniziato a scrivere in rete in tempi in cui sostanzialmente non esistevano né social network, né blog, né praticamente nulla di quello che usiamo adesso. Io frequentavo un newsgroup di cinema in cui scrivevamo recensioni di cinema esattamente equivalenti a quelle che si trova sui giornali, equivalenti migliori. Non in qualità ma in tipologia, cioè non era... Io posso anche capire che un giornalista o un critico cinematografico potesse dire: ma perché questi qua regalano il lavoro perché sono pagato e che devo vendere? Quindi un primo grande momento di disorientamento negli anni 90 ci poteva stare. Nel 2017 trovarsi ancora di fronte a giornalisti che non capiscono perché una persona appassionata possa decidere di usare il proprio tempo libero per fare gratis quello che lui fa pagato e magari avere un pubblico che lo apprezza è, diciamo, per distribuirlo ai suoi amici, o per qualsiasi motivo. Ma secondo me ci stiamo perdendo un elefante in questa stanza. Cioè, già dalle tue parole si dipinge questa, diciamo, questa internet degli albori, in cui sostanzialmente c'era questa utopia della piazza telematica in cui pochi felici eletti si scambiavano contenuti preziosi tra lacrime di commozione e momenti di gioia. E petali di rosa. Facciamo conto che sia così. Io non ho capito come mai poi, quando questi scambi sono diventati mainstream, quando milioni di persone sono finalmente hanno potuto accedere, come tu dici, democraticamente a queste piattaforme, improvvisamente è diventato un troiaio, un macello, posso dire io la prima parolaccia della serata. Cioè, esattamente come è stato che fino a un certo punto c'è ancora adesso in parte, però la dinamica prevalente di rete era quello che tu descrivi all'inizio del libro, cioè incontro felicemente degli sconosciuti che hanno con me una comunanza di interessi, di passioni, di curiosità, di umanità, a volte anche con un po' di scazzi, ci mancherebbe, immagino che sulle recensioni dei film non foste tutti d'accordo. Chiamavamo. Però diciamo c'era un galateo in qualche modo, posso immaginare, c'erano dei flame, c'erano comunque queste dinamiche che continuano ad essere, però credo che fondamentalmente se la narrazione prevalente, per quanto autocertificata, è quella della serendipity, della discovery di questo mondo che ti apre le possibilità, adesso fondamentalmente se le persone non si proteggono dietro un gruppo chiuso di WhatsApp, un gruppo di Facebook, quattro mura domestiche, è molto difficile fare un discorso propositivo. Abbiamo una soluzione che non sia l'Aventino? Perché non abbia ragione che stiamo già praticando. Allora, quello che è mancato, scusate se faccio magari un po' di storia della socializzazione sui media e dell'accesso alla pubblicazione, quello che è mancato è stato un passaggio culturale importante tra chi ha costruito e frequentato questa internet, che era una internet effettivamente elitaria, anche se non elitaria in senso socio-economico, era più elitaria per puro autoselezione, cioè era una internet che frequentavano persone interessate alla tecnologia. Io ero lì completamente per caso, perché io sono sempre stata totalmente disinteressata alla tecnologia, ma comunque c'era una competenza sociale molto simile a quella per cui, non lo so, si progettano i regolamenti delle associazioni, si progettano i modi in cui funzionano gli ambienti fisici, quindi c'erano delle competenze specifiche che sono state completamente dimenticate. Cioè nel passaggio dalla internet, quella che possiamo definire delle community, delle online community, e la internet dei social network, non c'è stato un passaggio di testimone molto importante. E quindi sostanzialmente siamo passati da ambienti di rete che prima venivano regolate in modo molto spontaneo, ma anche abbastanza preciso, da una serie di norme, di policy, le policy in alcuni casi hanno anche valore legale, a una realtà in cui i nuovi player della rete, quindi i Facebook, in misura minore i Twitter, diciamo che Twitter del primo momento aveva questa eredità ma poi l'ha completamente persa, YouTube, tutti quelli che usiamo adesso, che hanno sostanzialmente sposato una dinamica di responsabilità personale e di dire, cioè facciamo un esempio che è più facile. Quando tu scrivi a Facebook che non mi sembra carino che lui insulti sua moglie sulla sua bacheca, Facebook ti dice nascondilo, okay? Non ti dice non si può fare, ti dice puoi non vederlo. Occhio che non vede. Questo non è una dinamica di autoregolamentazione di una comunità, questo è mettere la polvere sotto il tappeto. Quindi c'era una competenza che non è nostalgica, perché io, pur avendo vissuto tutta la rete, io ho amato tutte le fasi della rete e mi trovo benissimo anche nella rete di adesso, anche perché se c'è da menare due sganassoni io li meno volentieri in pubblico e in privato, non mi faccio problemi, ma professionalmente, perché noi molto maleducatamente non ci siamo presentati, ma vabbè, lo faremo. Io di lavoro progetto il modo in cui le persone frequentano questi ambienti di rete e lo faccio dalla fine degli anni 90, quindi le ho viste un po' tutte. C'era una competenza specifica che non serve essere nostalgici per rimpiangere, perché la rimpiangiamo tutti quando ne vediamo gli effetti. Nel mondo dei newsgroup, che è quello di cui parlavo prima, c'era addirittura un newsgroup che si chiamava It Fan Culo, che serviva esattamente a quando due persone, un gruppo di persone esageravano nel litigare di cinema, di modem, c'era addirittura un gruppo di commercialisti che ho sempre trovato molto interessante, così li si invitava a proseguire la discussione fuori, esattamente come si dice andate a menarvi fuori. Questa competenza qui nel mondo, nell'azienda Facebook, che è un'azienda straordinaria che io per tanti motivi apprezzo tantissimo perché hanno una competenza, un talento straordinario, questa competenza qui manca del tutto. Cioè Facebook è un'azienda psicologicamente, antropologicamente, sociologicamente inadatta a gestire una situazione in cui 1 miliardo di persone litigano in pubblico senza avere gli strumenti sociali e culturali per farlo, perché c'è stata questa frattura. E in più torno al libro di Antonio, perché vorrei, anche se lui fa finta che mi fa piacere, se sono faccio finta io di essere l'autore, lui non così, c'è un'altra cosa che sono contenta che lui abbia portato fuori così bene, è che tutti noi siamo convinti di vivere nella società di internet, ma in realtà noi siamo ancora figli della società della televisione. E le persone che litigano e dicono muori cretina in pubblico su Facebook, che sono contenti di augurare la morte a chiunque e di essere violenti con le parole, sono i figli, perché hanno 40-50 sì, anni. Non ma hanno... sentiamolo dalla viva voce dell'autore. Sentiamolo da... Sono di chi sono però i figli. Visto che non ci siamo presentati, sarebbe bellissimo come nel jazz, che dopo la solo a un certo punto uno fa Manfe de Bagis, un applauso. Sì, sì. Di chi sono i figli? Ma allora, no, prima ancora del... No, Deborah, devi dirlo, perché di chi sono i figli? La curiosità. No, allora, sono i figli... No, io volevo rispondere a questo. Sono i figli di una cultura della comunicazione che, partendo da una infrastruttura di tipo broadcast, uno parla e tutti ascoltano, ha sviluppato l'unico modello, l'unico codice che poteva funzionare su una infrastruttura di questo tipo. Se uno parla e tutti ascoltano, l'unica cosa che può funzionare è esserci o non esserci. Poi, su questo esserci o non esserci, è chiaramente che cosa poteva funzionare come format. Il protagonismo, l'arroganza, la presunzione, c'è cioè tutta una serie di cose che hanno costruito la televisione commerciale degli anni 80. Non che prima la televisione fosse migliore, io non mi azzarderei mai a dire che la TV di Berlusconi fosse peggiore della TV che c'era prima. Prima era una televisione incredibilmente controllata da un gruppo di persone, imbalsamata da un gruppo di persone che stabilivano cosa fosse giusto, corretto, consolante, opportuno per un paese di analfabeti, okay? Un paese agricolo, e quindi la TV ha traghettato gli italiani, intanto gli ha dato un linguaggio comune, cioè... Però tutto questo perché c'erano... l'ha fatto, ma infatti io mi tolgo il cappello, perché quella era un'operazione infinitamente più difficile. Invece dopo, la televisione era solo una scusa per vendere spazi pubblicitari, quello era il business, no? E quindi quale unico vincolo lo poteva permettere, un po' come nella Spagna del Desarrollo, cioè di Gonzales, finito il franchismo, in TV hanno cominciato ad apparire tutte cose che prima non c'erano. Stessa cosa è successa negli anni 80 in Italia con Berlusconi. È stato un movimento di liberazione sì. da quei cordoni di quei signori responsabili che c'erano prima e con tutti gli svantaggi del caso. Che cosa poteva funzionare? Poteva funzionare quel tipo di televisione che ha creato questo tipo di cultura che adesso per semplicità d'ora in poi chiamiamola, anche se non è questo il termine, la cultura broadcast. Quella dove c'è uno che parla, tutti che ascoltano. E consideriamo questo principio del broadcast come una sorta di vincolo industriale. Ora, le persone, tu dici di chi sono i figli? Chi oggi scrive su internet, sicuramente come molti importanti studiosi, penso a Giovanni Ziccardi, sì, sicuramente tiriamo fuori il nostro odio, le nostre frustrazioni per una serie di meccanismi neurocognitivi che si creano con questi schermi piccoli, eccetera. Però questo non spiega che è una parte del fenomeno, non possiamo completamente ignorare da dove veniamo. E noi veniamo da un modo di vedere le cose dove quello che conta è esserci, essere oltre questa linea rossa della celebrità, anche temporaneamente. Io ho fatto di recente l'esempio della ragazza che si è salvata dall'hotel Rigopiano, dove c'è stato questo crollo, no? È stata salvata e lei, ovviamente, come qualsiasi ventenne, che cosa ha fatto? Ha rimesso piede su Facebook e ha scritto «Sono felice di essermi salvata», senza rendersi conto che era ancora in quel momento una celebrità. E quindi, superata la linea rossa della celebrità, questo suo status su Facebook è stato il luogo dove si è riversata un'enorme quantità di insulti nei confronti di questa ragazza, che venivano da persone che non facevano altro che cercare un palcoscenico, quindi un luogo dove potevano esserci, perché c'era lei, e quindi potendo dialogare con lei. Allora, e questo era il discorso. Esserci come poteva esserci quando Maurizio Costanzo faceva salire sul suo palco delle persone che prima non erano celebri. Questa è la grande nuova formula di Maurizio Costanzo, grande esperto di comunicazione, no? Indubbiamente. Chi faceva salire? Faceva salire un critico d'arte che era bravissimo a fare il critico d'arte, ma poi aveva altri talenti come Vittorio Sgarbi e faceva salire qualcuno che Vittorio, tipo la giovane scrittrice bionda un po', che se la tirava un po', che era la persona che di mestiere doveva prendersi gli insulti di Vittorio Sgarbi. Una cosa del genere. Pagata per essere Sì, cioè insultata. una cosa del genere in televisione non si era mai vista, era liberatorio per gli italiani, dove al massimo vedevi la litigata finta di Sandra e Raimondo. Ok? Allora, questo far diventare qualcuno per un attimo celebre e quindi esposto, no? Ai milioni di occhi. E poi trovare anche i talenti, cioè le persone che erano disposte a interpretare questo ruolo, è stata la grande invenzione di quella televisione. Oggi noi ci ritroviamo con questa cultura nei thread di Facebook. Più o meno inconscio, insomma, A vari livelli, diciamo, sì. di coscienza, ma di sicuro quando qualcosa diventa celebre, immediatamente le logiche sono quelle. Perché i thread? Perché se io scrivo in un thread dove a un certo punto Mentana blasta la gente, improvvisamente il mio commento può avere 2000 like, solo perché sono nel mondo di Mentana. Cioè, anche un discorso di feature, me ne rendo conto, non è solo. Perché se gli occhi si posano tutti lì, quello diventa una piccola arena, ma un'arena di tipo televisivo, dove o ci sei o non ci sei. Tutte le nostre altre le discussioni che si facevano nei newsgroup di Usenet, dove si parlava di cinema, eccetera, erano veramente discussioni tra pari. Perché. Tra pari che non erano pari, questa era una rivoluzione equivalente a quella del Maurizio Costanzo Show, Sì. c'era un diventare pari in base alla forza del contenuto e non in base alla forza Del curriculum. della posizione, del curriculum. Esatto, infatti lì su Itarty Cinema, per esempio, alla fine. Le mostrine, diciamo, del nonno che poteva bacchettare gli altri, nel tempo l'acquisivano i veri esperti di cinema. Su Itarty Musica Jazz c'era Sergio Veschi che, guarda caso, aveva una etichetta di distribuzione, no? Un'etichetta discografica. E così via. Allora, se noi siamo, se, per rispondere alla tua domanda, siamo i figli della cultura dove la prima cosa che conta è essere oltre questa linea. Tu usi un'altra bella metafora, che è quella della merda del ventilatore. Seconda parolaccia di Stasera oggi. sono una signora Ah, proprio. posso dire che troiaio però non è una parolaccia, perché è il posto dove si, No, filologicamente. dove si nutrono appunto quel tipo di animali. Le scrofe, Sì, possiamo definire esatto. una Una scusa. linea della parolaccia, vabbè, torniamo indietro. No, no, no, al contrario, no, proprio una specie di formula matematica, per cui qualunque cosa finché rimane in una rete, quindi proprio sulla rete in senso matematico, quindi in un gruppo in cui ogni persona è legata a qualcun altro almeno da un nodo, quello che avviene in rete mantiene sempre le forme della civiltà e della cortesia, che vuol dire che magari si discute anche pesantemente, ma non si trascende mai. Nel momento in cui, come correttamente dice lui, si passa a una logica broadcast, che vuol dire che si parla a persone che non sono più legate a te da una logica di rete, ma che diventano pubblico, c'è l'effetto merda sul ventilatore. Io l'ho visto in due cose, una è successa a me, una l'avete vista tutti, quindi racconto prima quella che è successa a me perché sono una narcisista schifosa, adesso no, ebbene sì, lo ammetto. Quasi per caso io da un mio post sul mio blog, mi leggono poche persone, mi seguono poche persone, io ho il terrore di superare questa linea dalla rete al pubblico. Ho il terrore nel senso che io patisco molto quando poi ci sono le aggressioni e le cose, quindi sto bene attenta, ma per caso avevo scritto questo pezzo abbastanza satirico che si chiamava Prima di Internet, in cui ironizzavo sul fatto che per molti sembra che prima di Internet ci fosse una specie di, non lo so, cantico dei cantici perenne, che dicevo prima delle Dell'oro famiglie, la sera chiacchieravano, i padri giocavano di con i Dostoevskij. figli, sì, le coppie non si separavano mai, facevano l'amore, eccetera, eccetera. Questa cosa parte su Facebook nella mia rete e tutti giochiamo con la mia rete, con il mio spirito, quindi era una cosa molto sarcastica, molto ironica. Poi piano piano, quando la cosa supera, posso anche darvi dei numeri che sono, di solito quando comincio a superare il centesimo like, io comincio a chiudere Facebook, comincia ad arrivare qualcuno che non ha capito, quindi comincia a dire, ma non è vero che prima di internet le cose andavano meglio, tu dici, oh my god. Per farvela breve, questo prima di internet è arrivato su Twitter, è diventato un hashtag di nostalgia. Quindi è stato completamente capovolto. Ok, e questa cosa è una cosa tutto sommato indolore, però quando la vedi succedere è abbastanza interessante perché perdi completamente l'origine di un discorso. Però dal punto di vista tecnico questo accade perché le piattaforme come Facebook in questo caso guadagnano dalla circolazione, dalla distribuzione del contenuto, quindi per loro è più importante ingaggiare marginalmente il 101° commento che di una persona che legge, ha letto solo il 99° e il 100° di commento e quindi ha molte probabilità di perdersi il contesto, ma in questo modo la piattaforma riesce a saltare da una rete a un'altra rete. Quindi dal punto di vista di Facebook è efficiente il fatto che ci sia un'incomprensione, perché è funzionale all'allargamento e alla circolazione. Poi, qui torniamo a un tema, cioè... Ecco, però volevo... No, vai. No, mi hai Ti ho disattivato. disattivato, adesso io vado a cena. Ci No, lasciamo. a parte gli scherzi, vai. C'è il blue No, screen of stavo per dire death. una cosa noiosissima, quello che C'è una volevo dire adesso. domanda. C'è una Salvata. domanda. Salvata. Sì, sì, ne approfitto per Certo. mettere salvagente. Un caso che mi sembra molto calzante è stato quello di cui tutti probabilmente hanno sentito parlare, quella cosa che è diventata virale sul tizio che aveva commentato la fotografia di Spielberg col tirannosauro, col T-Rex, Ah, no? sì. Eccetera, no? E io credo di essere stato l'unico a spulciarsi tutti i 5.000 commenti del thread. È finito 10 minuti fa, infatti. No, no, e ho Scherzo. visto che effettivamente lui l'aveva detto con tono scherzoso, solo che si era persa la contestualizzazione, L'ironia, sì. perché diciamo, le sue battute ironiche sono state subito sommerse dai commenti successivi. Io addirittura sono riuscito a raggiungerlo e a intervistarlo, ma ha confermato la versione. A me sembra che la lettura della come era internet agli albori abbia una sfumatura anche un pochino diversa, cioè la lettura che dai tu del tipo era il mezzo che si autoregolamentava e quello che manca a Facebook oggi è questa volontà di regolamentarsi, è vera, però è vero anche che in quel contesto c'era una fortissima autoregolamentazione, cioè se uno arrivava e faceva una recensione del cavolo lo smazzulavano e lo polverizzavano, quindi c'era anche una controllo sociale molto forte, quindi più che il modello costruiamo la società, ci diamo un codice civile di regole, vedo questo meccanismo più simile a quello dell'evoluzione della lingua, cioè è la collettività, è l'uso che fa della collettività di quello strumento a farlo evolvere, quindi se smettiamo di usare il congiuntivo, non è la crusca che decide che il congiuntivo non si usa più, sono gli italiani che non lo usano più, quindi ne prendiamo atto. Quello che è successo a internet è che agli albori la comunità era costruita da una serie di persone che si autoregolamentavano all'interno di un sistema che aveva le sue regole, ma erano le persone poi a farle forti, perché ignorare tutti insieme una regola è un attimo che non serve più. Mentre oggi le persone entrano, non hanno modo, tempo di istruirsi reciprocamente sul comportamento, il cosiddetto September, Endless September, che uno, insomma, che nasce negli Stati Uniti quando all'interno delle comunità online, quando arrivava settembre le matricole, ci si metteva 3 mesi a istruire le matricole e come comportarsi. Poi a un certo punto l'apertura internet era così grande che non si riusciva più a educare i nuovi entrati. Quindi questo meccanismo secondo me è andato saltato ed è dovuto all'apertura massiva di persone, non che si possa fare qualcosa per impedirlo, se non a livello personale, continuare personalmente la propria piccola lotta di educazione e di indirizzo su come mi voglio comportare, quindi mi voglio relazionare con una persona che non sa parlare o che è aggressiva, io scelgo di no. Però allora il mezzo, effettivamente restava molto il discorso del mezzo che ti chiede di nascondere una cosa, che in realtà porta all'effetto bolla, per cui tutti noi Sì, leggiamo solo le cose che che ci coincidono con il nostro assomiglia, pensiero, e ma... quello è molto pericoloso, perché nei newsgroup se uno scriveva una cazzata la leggevi e gli andavi a dire che era una cazzata, Sì, c'era... non era mai siamo arrivati a nascondere praticamente Ma su quella proviamo a massa. dare una sintesi di questa cosa, perché è vero quello che dici, cioè sicuramente non solo è aumentata enormemente la scala delle persone, ma è cambiata la composizione, cioè quella era una internet di persone con un certo profilo, un'altra cosa che secondo anche me il motivo abbastanza per cui sociopatiche, quindi secondo me erano pochi, che c'era un ostacolo all'ingresso, cioè c'era una sì. sorta di pigrizia. Questo è sicuramente e bisogna avere una curiosità molto forte che avevano solo alcune persone. Se non eri curioso, quell'ostacolo non lo sorpassavi. Anche sì, però il primo ha spaccato la prima vetrata e dopo tutti gli altri in età si possa sì, anche spaccare. Però giusto per chiudere la cosa, non di, questa cosa è vera. La conclusione che dici tu è vera, sono io in questo momento che almeno intorno a me curo il mio, ma non ci nascondiamo il fatto che il modo in cui vengono progettate le piattaforme condiziona, facilita, rende piacevole o spiacevole un certo soprattutto comportamento. Soprattutto se le piattaforme che ha fatto Facebook per 10 anni fanno finta di non essere degli editori. Sì. Facebook per 10 anni ha fatto il gioco, no, io non sono una media company, per cui per fate la cortesia, le parolacce, se vi danno fastidio, boh, telefonatevi. Questo, questa cosa qua. Uso la tua cosa perché questo è un alibi che molto spesso viene usato dalle piattaforme, e Facebook dice, figurati, ai tuoi tempi, carina, eravate in 10, adesso sono 1 miliardo, come faccio? Non è una scusa che sta in piedi, perché il software è per sua natura scalabile, la forza del software è quello di poter gestire esattamente 1, 10, 1 miliardo nello stesso modo, è aumentata la potenza di calcolo, è aumentato tutto, e quindi in questo momento mancano le soluzioni sociali a questa cosa, che non sono risolutive, perché tu dici un tempo ci autoregolamentavamo. Ni. No, voglio dire che c'erano entrambi i profili, e pensare che sia solo sì. uno o solo l'altro. No, sono tutti e due, assolutamente, assolutamente sono tutti e due. Banalmente c'era anche un filtro all'ingresso, per accedere al newsgroup bisognava configurare un client, quindi mettere un server, iscriversi a un newsgroup, cioè non era così immediato. Anche banalmente il fatto stesso di dotarsi di un collegamento a internet, pagarlo. Cioè significava avere una curiosità verso la piattaforma, e quindi questo secondo me, cioè non dobbiamo dimenticare, negli ultimi 5 anni in Italia sono arrivati tutti insieme 15 milioni di utenti, di neofiti, negli ultimi 5 anni. E devo dire che la reazione dei primi arrivati è forse la cosa che mi ha deluso di più rispetto a questa invasione barbarica, perché come tale è stata vissuta. Non c'è stato in alcun modo il tentativo di, non dico di imporre codici, perché lo potevi fare in It, Arti, Musica, Jazz, ma non lo puoi fare su Facebook. Ma non lo facevi neanche. Non lo facevi. Cioè, ma semplicemente di capire quali sono i nuovi codici, verso che cosa si sta andando. L'unica reazione è stata la gogna, lo screenshot. Creare dei gruppi dove tu puoi fare il wall of shame oppure la fuga. Non puoi pensare improvvisamente che queste persone capiscano tutto quello che stanno sbagliando, che stanno scrivendo in modo sgrammaticato, che scrivono con le K, che sono degli analfabeti funzionali, la comprensione del testo e il poco, l'apostrofo che viene scritto, ma capire tutte queste cose semplicemente perché c'è, oddio, ma forse c'è qualcuno che mi sta screenshotando da qualche altra parte. Cioè, la mia sensazione è che abbiamo, e mi ci metto anch'io, scavato un fossato ancora più profondo, e che la soluzione non può essere così semplice. Che è un po' ridicolo di tutto questo. No, poi la smetto perché sennò facciamo la piaga delle cose, ma praticamente nel 1996, mia prima uscita in rete in una mailing list, la risposta è già stata questa, è stata: cosa vuoi tu a donna? Da cosa c'entri tu qua? Di persona che lavora nel mondo della comunicazione, e alla fine stanno arrivando le invasioni barbariche. Era il 1996 e già c'era un non netto a chiunque non fosse un informatico, sì. Chiunque non fosse internet non era neanche ancora diventato un borsello, sarebbe diventato quello, nel 2000, però appunto per fare un fast forward a oggi, oggi ci troviamo appunto il troiaio, e quindi Facebook sicuramente assolutamente non è in grado di gestirlo, Twitter sta andando a ramengo proprio perché deve copiare Facebook, sennò i venture Facebook. Capitalist sono convinti che stia per fallire, ed è proprio perché copia Facebook in realtà che sta per fallire. Io ho due domande per te. La prima: gli youtuber vengono dai reality o sono una cultura nuova? La seconda: come facciamo a invertire la tendenza? La seconda non ho la risposta, e l'ho scritto anche faccio uno spoiler, che nella parte finale del libro, non è un libro di risposte, è un libro che cerca di inquadrare meglio la visione di quello che sta succedendo per poi dare strumenti a ciascuno di trovare le proprie risposte. Perché poi non è detto che vogliamo andare tutti nella stessa direzione, e non ho la pretesa chiaramente di indicare la via. La prima domanda: YouTube, i reality oppure contenuti originali? Entrambe le cose. Perché, per esempio, io mi sono dovuto studiare un bel po' di youtuber giovani negli ultimi tempi, perché tra una settimana vado a Trieste a parlare di giovani in rete. Interrogano. Interrogano. Sì, sì. E per fortuna io ho una figlia di 13, quasi 14 anni, che ha la Chromecast e da un po' di tempo, cioè lei proprio non ha modo di vedere la televisione, tecnicamente, e non gli interessa. Dice, cos'è quel cavo dell'antenna? Che è quella scatolotto con scritto Sky che hai sotto il televisore? Io il mio televisore ho la Chromecast e guardo solo YouTube, ed è il suo mondo veramente. Lì ci sono veramente delle idee nuove che non sono format televisivi, scordiamocelo assolutamente. Chi vuole fare questo lo fa perché scientemente vuole a un certo punto andare in televisione, sono molto bravi, pensiamo al Terzo Segreto di Satira, a Casa Surace, a tutti questi veri e propri format che sono nati. Poi però ci sono soggetti che intanto mettono a disposizione semplicemente il loro talento, la loro genialità, la loro creatività, senza neanche sapere che stanno scrivendo delle micro sceneggiature, eccetera, come questo Tristram, che ha ancora soltanto 50.000 follower su YouTube, non ha superato alcuna linea rossa della celebrità, ma proprio per questo ogni volta ti sorprende. Se vai a vedere oggi Favijay, che ha milioni di visualizzazioni, o Greta Menchi, che anche lei ha milioni di visualizzazioni, già si comportano da stare, hanno capito che tutto sommato neanche conviene mettere più idee nuove, perché loro basta che si siedono sul fatto di essere Favijay e Greta Menchi e sono a posto. No, ve lo dico perché faccio un esempio. Se guardate questi cosiddetti mate, cioè quelli che fanno gli YouTube, i video solo di se stessi che parlano, con montaggio sopra se stessi mentre parlano per sembrare più veloci e più brillanti. L'ha inventato Zoro, non l'hanno inventato loro questa cosa. Ma magari loro non lo sanno neanche. Ma non, sintassi, sì, beh, copiano tra di loro, sì, non esatto, è che esatto, cioè, se lo passano il trend. Cosa fanno? Fanno le challenge, cioè stanno sulla challenge più recente, no? Quindi fanno Chubby Bunny Challenge, tutti, vedi, hai visto Favijay ha fatto Chubby Bunny Challenge, oppure fanno i video insieme, si vede improvvisamente Favijay insieme a Greta Menchi. Cosa hanno fatto? Hanno fatto il video di Justin Bieber con Miley Cyrus, a un certo punto le star si mettono insieme. Oppure il bacio saffico allo spettacolo del Super Bowl tra Madonna e non mi ricordo chi. Lo fanno pure loro. Prima pagina, hai visto? Hanno fatto il bacio, eccetera. Cioè, si comportano da celebrità, non hanno più bisogno di introdurre linguaggi nuovi. La cosa che fanno più spesso è il video in cui, altra parolaccia, sputtanano tutti quelli che mandano commenti di odio a loro. Questo è diventato il format di maggiore successo. Chi l'ha inventato? La Lucarelli. Chi l'ha copiato? Il presidente della Camera. Scusami, non è una roba da hip hop questa? Anche sì. Sì, sì. Ricolto. No, assolutamente. Allora, superata la linea della celebrità, non c'è più creatività. Sotto. Quindi è la seconda legge di Pavolini. Quindi perché quando si esce dalla rete e si va al pubblico, merda sul ventilatore. Non serve. Quando sei... Basta che si parli di te. Invece sì. Sotto scopri invece tante cose nuove. E poi qualcuno, tra virgolette, si vende l'anima al sistema e diventa parte. E invece qualcun altro continua a rimanere un puro. E sparisce perché magari a un certo punto entra in un'agenzia di... digital PR, magari no, diventato il mio lavoro, sono molto felice. Ci sono quelli che hanno fatto questo. Poi ci sono quelli che diventano account director in una società di pubblicità, in un'agenzia pubblicitaria, oppure diventano, fanno dei piccoli spettacoli teatrali, cioè, però comunque rimangono ai margini, no? Altrimenti, se diventi celebrità lì, già c'hai tutti i marchi che ti sbavano dietro per riempirti di soldi e farti diventare il personaggio innovativo della presentazione dell'ultima macchina Renault, Nissan, no? C'è tutto questo mondo di influencer, aperte virgolette, perché lo youtuber viene chiamato... Una forma di casting. Sì, una forma di casting. Ormai sono celebrità, basta. E se sono celebrità che nel mondo delle aziende vengono percepite come il nuovo, quando in realtà già sono il vecchio, funziona proprio perché nel mondo delle aziende è quel vecchio che viene capito come nuovo. Dato che è chi è che compra, chi è chi ha i soldi per comprare l'idea che decide. Sono sempre delle audience. E che vive negli anni 90, esatto. Quindi funziona. Funziona così. Un'altra domanda. Dici che non dobbiamo farci raccontare internet nei giornali della TV, perché dovremmo farcelo raccontare da un libro? Allora, la stessa domanda che mi ha fatto Claudia Vago, dopo la presentazione di Pisa, io ho risposto che appunto questo non è un libro. Proprio perché ho voluto essere parte della rivoluzione digitale nel mondo dei libri. Wow! Il che mi ha permesso, per quota parte veramente microscopica, mi ha permesso di capire quali sono i vantaggi. Ho capito, ma non sono i tempi di... Cioè, ho scritto una cosa digitale per poterlo scrivere in pochi mesi e sapere che sarebbe uscito quando era ancora fresco. Perché altrimenti... questo per rispondere alla tua domanda in termini tecnici. Poi, un'altra domanda me l'ha fatta Luca Sofre, ha detto, ma perché dovremmo farci spiegare i giornali da internet? Questa è un'altra domanda molto intelligente che ha fatto. Perché internet non esiste. Esatto, no, ma perché internet, il problema non stiamo parlando di i giornali che parlano di internet, stiamo parlando di cose vecchie che parlano di cose nuove. Come fanno le cose nuove a parlare di cose vecchie? Cioè la notizia è la novità, qualcosa che sconvolge, quindi non c'è, da internet non c'è l'esigenza di descrivere i giornali, assolutamente. Comunque, non posso non raccogliere il tuo assist, perché in effetti un numero che voi sapete che è Informat, che è qui incarnato da Antonio Taglia, è un editore dadaista e ha pubblicato, oltre ad Antonio Paolini, anche Maffe Zebaggis. Contro entrambi, io privatamente, essendo amico suo e marito suo, mi sono scagliato dicendo che non aveva molto senso scrivere un libro, cioè usare un medium statico per raccontare un cambiamento. E devo dire che col senno di poi io mi sbagliavo, cioè avevo ragione ma mi sbagliavo, nel senso che probabilmente non è la soluzione ottimale quello di imprimere qualcosa su una carta, fosse anche ink, però è comunque uno stato dell'arte, un punto della situazione, ed è anche un modo, anche un Tamagotchi, Antonio, perché sì. Adesso c'è un piccolo retroscena. Antonio Paolini, che è un uomo coraggioso, è stata la prima cosa che ho detto stasera, aveva il terrore, una volta stampato questo libro, che fosse magicamente già vecchio. E devo dire che col senno di poi invece il libro sta reggendo piuttosto bene, se lo è uscito ottobre, pochissimo, però non lo so, ma voglio dire, in tre mesi, voglio dire, c'è un'obsolescenza, allora, incredibile. Forse per chiudere la risposta alla BAT, anche tu hai una risposta? No, mi è servito per strutturare il mio pensiero, perché è una cosa drammatica nel dover o dare subito risposte cotte e mangiate che mi danno soddisfazione, perché mi fa sembrare, oddio, c'ho ragione, vedi questo come l'ho sistemato, gli ho risposto con questo post di 5 righe. Oppure anche quando scrivi post su Medium, che può sembrare la foglia di fico, no? Dice, beh, adesso qui ho fatto un articolo, quindi va meglio. No, devo dire che la disciplina necessaria per costruire una cosa del genere è veramente piccola rispetto a un vero saggio, perché questo non è un saggio, ma non è neanche un pamphlet di opinione, è un po' a metà strada. Ma cosa hai scritto? No. Dicelo. Ho scritto una roba che sicuramente non è un romanzo e che racconta da tanti punti di vista questa transizione degli ultimi 20 anni. Dico da tanti punti di vista perché io in 20 anni ho lavorato più o meno in tutte le posizioni. Foto 360. È una foto 360, perché mi sono trovato a lavorare nei giornali, nelle agenzie, poi come responsabile comunicazione di un'azienda, poi anche io ho sperimentato tutte queste cose. Un po' tutte le cose, mi sono reso conto anche, diciamo, della necessità di un approccio laico, perché se io avessi lavorato sempre in un centro media non avrei mai potuto scrivere una cosa del genere. Cioè, perché sarebbe stato mediato dalla mia deformazione professionale. Il privilegio che ho avuto è stato quello di avere non nessuna deformazione professionale, ma tutte le deformazioni insieme, quindi è un minestrone micidiale che però ti fa vedere le cose da tutte le angolazioni possibili. Questa è stata la fortuna. Cioè, il libro per me era un'opportunità per fermare da qualche parte qualcosa che si portasse dietro questi anni. Io mi riallaccio a questa tua risposta, anche perché un altro equivoco molto forte nel racconto dominante, come definito da Antonio, oltre alla internet regno di violenza e di tutte le brutture umane, è che se si sceglie internet bisogna abbandonare tutto il resto. Questo è l'equivoco che personalmente mi innervosisce di più. perché prima di tutto la storia dei media contraddice questo assunto. Tecnicamente ogni nuovo media ne ha spostato un altro, non l'ha sostituito. Ma poi perché questo non è particolarmente vero per internet, che è un medium che contiene tutti gli altri medium. Cioè, nel momento in cui, sì, cioè nel momento in cui io guardo Sanremo in streaming sul sito di Rai 1, cosa sto guardando? La televisione. Non sto guardando sul televisore, ma... Quindi questa idea che, non nel senso di quello che dici tu, ma questa idea che se uno è moderno e contemporaneo e ama Facebook non possa pubblicare un libro o non debba più leggere libri, o cosa fai con la Moleskine tu che sei digitale, ma così è veramente una grossa fregatura che stanno facendo, non a noi qui credo, ma alle persone che ricevono questo racconto. Cioè noi viviamo in un'epoca in cui Moleskine e Lego sono le aziende fiorenti di questo periodo, proprio perché noi... La Lomo, ed è un'epoca in cui facciamo il pane in casa, facciamo la birra in casa, facciamo l'orto, cuciniamo, ci fotografiamo mentre cuciniamo, andiamo a correre, ci mappiamo, facciamo un sacco di cose fisiche, proprio perché abbiamo qualcosa in più, non abbiamo qualcosa in più. Questa fregatura di continuare a dire, ah no, se tu leggi l'ebook non leggi più il piacere del libro di carta, se tu sei su internet perdi, è veramente una fregatura ed è una delle cose che a me, proprio, come si nota, irrita profondamente. Ma lei ha scritto un libro proprio su questo, che è Illumino, che è uscito circa un anno e mezzo prima. Però non compratelo. Se non avessi letto Illumino non avrei mai scritto questo ebook. Aggiungo, mi rilascio a quello che dice Mafe, anche nel dibattito su tutte queste cose è come viaggiare nel tempo, vi assicuro. Cioè ogni volta il discorso cambia a seconda della tipologia di interlocutore. Io stamattina mi trovavo alla Camera dei Deputati a un evento organizzato dalla Presidenza della Camera, quindi da Laura Boldrini, dove c'erano personaggi del mondo dell'industria televisiva, c'era la G-Com, eccetera. Io ho sentito delle cose... che lì erano di nuovo attuali. Erano di... bello, sei giovane. Sei erano di... giovane. Sì, mi sono sentito veramente un trentenne. Era uscita Wonder Woman. No, perché a un certo punto il vice commissario della G-Com, Martuscello, ha detto... parliamo di quello che hanno detto i broadcaster. C'era Mediaset, c'era la Rai. Hanno cominciato dicendo... il problema principale è che... le televisioni sono incredibilmente normate, noi abbiamo tutta una serie di responsabilità, esiste l'authority, esistono le leggi, quello che possiamo fare, le fasce protette, eccetera, mentre questi OTT non possono fare nulla. Ora, a giudicare da quello che hanno mandato in televisione con tutta questa normazione negli ultimi 30 anni, qualche dubbio sull'efficacia dell'argomentazione ci viene, ma la cosa più inquietante è stato l'esordio appunto del vice commissario G-Com, Martuscello, che ha detto... Perché oggi quando leggiamo sui giornali, quando guardiamo la TV, sentiamo parlare di internet, sentiamo solo parlare di meravigliosi spazi di libertà, democrazia, le opportunità, finalmente abbiamo come dei superpoteri. Ho detto, ma di che... cioè, in che anno siamo? Cioè, in che anno siamo? Cioè, e tutti facevano così con la testa. Cioè, c'è stato un momento di cervicale, perché c'era l'head nodding generalizzato. Poi mi sono guardato e ho visto che erano più o meno tutte persone di quell'ambito. Cioè bisognava partire dal, vedi, il mondo è tutto contro di noi, che siamo gli unici che si rendono conto invece dei pericoli. Perché? Perché siamo i rappresentanti dell'industria, siamo l'autorità di controllo, siamo... questo mi ha veramente agghiacciato, perché praticamente time warp, cioè avevano la DeLorean e si sono... portati nell'anno in cui quel discorso in quella sala, in quel momento, era il 1993, perché erano tutti a fare così, vedi, c'è appena stato il Clou 3 in manifesto. Dichiarazione dell'indipendenza del cyberspazio. Del cyberspazio, cioè ci voleva la musica però... di Jean-Michel Jarre, era perfetto. Però qui mi devi a questo punto, mi devi tu un favore. Sì. Perché io mi sono permesso di prefare al tuo libro questo concetto, che in un mondo in cui si sono persi i riferimenti, la conoscenza, le cose come siamo abituati a farle, sono di fatto rumore rispetto al segnale del pattern emergente che tu descrivi nel libro. E io mi sono preso la briga di mettere questa cosa all'inizio del tuo libro, che in realtà poi è stato nella scrittura forse una delle ultime cose che sono arrivate. Mi sei arrivato. Però tu diciamo, non hai risposto, non dico a me, ma a questa cosa. Cioè, come si fa oggi a, visto che non, si fa molta fatica a trovare una identità, un perimetro a questa trasformazione, come si fa oggi ad avere un criterio qualunque tra che cosa è il segnale e che cosa è il rumore? La mia tesi, lo dico solo perché tu possa smontarla, è che il segnale arriva soltanto all'interno del rumore e che sia molto rischioso separare le cose quando non abbiamo cognizione precisa di cosa sta accadendo. Allora, io ho provato a risponderti in realtà in un post che ho scritto su Medium qualche mese dopo. Ma io ascolto solo i comunicati stampa della Boldrini. Raccoglievo tutta una serie di osservazioni molto molto intelligenti che mi hanno fatto anche nelle recensioni. La tua è effettivamente è un buco del libro. Il libro non chiarisce bene, e me ne sono reso conto, che quando parlo di rumore di segnale parlo in realtà di rilevanza, cioè di ciò che è rilevante soggettivamente per ciascuno di noi. Quindi nessuno può salire su un piedistallo e stabilire cosa sia segnale, cosa sia rumore per tutti. Io sì. L'hai scritto nel libro? Sì. Vedi, avere dei lettori attenti. L'ho scritto a lui, all'editor, quindi è evidente. Dai, chi ti ha scritto questo libro? Adesso ce lo puoi dire. Ma anche tu quando rileggi dici, ah caspita, che cosa intelligente, che ho pensato e che avevo completamente dimenticato. No, però non si capisce evidentemente che non sto parlando di... Ma non l'ha letto, ma secondo te l'ha letto. Io l'ho riletto due volte, forse non l'ho letto la prima, però solo riletto. Allora, quello che ci hanno dato in mano questi signori, che sono molto più Winton Cerf di Tim Berners-Lee, cioè un protocollo interoperabile, perché lì abbiamo capito che non avremmo avuto America Online separata da CompuServe, separata da Bertelsmann Net e Berlusconi Net, è lì che l'abbiamo capito, quando qualcuno fissò come vincolo un protocollo interoperabile, quindi sempre compatibile verso il basso, no? In quel momento c'è stata data l'opportunità di stabilire individualmente per ciascuno di noi che cosa fosse rilevante in un enorme mare magnum che però era costretto a comunicare da un punto all'altro. Poi chiaramente tutti i tentativi di recintare nuove internet rilevanti per le masse dentro internet, le famose bolle di cui parlano anche no, ma proprio Facebook è una nuova internet dentro internet, no? Però non viene più fatta con una feature tecnologica, ma con una feature, come hai detto saggiamente tu, editoriale. Cioè loro sono editori senza dirlo. Ok, sono peggio, perché molto peggio, naturalmente. Però in realtà individualmente abbiamo tutti l'opportunità di scoprirlo, soprattutto i millennial, che appena hanno subito capito Facebook che cosa voleva fare loro, cioè creare un ambito di controllo sociale, sono fuggiti per la sfera privata, sono fuggiti su Snapchat. WhatsApp, Snapchat, Telegram. Per la sfera pubblica, di cui avevano bisogno, sono sfuggiti in un mondo dove non dovevano rispondere a nessuno di chi fossero, in modo da poter parlare fuori dai loro recinti, come per esempio Tumblr, che è durato però soltanto 2-3 anni, e poi hanno smesso di stare anche su Tumblr perché poi siamo arrivati noi. Esatto. Voi siete il virus, noi siamo la cura. Esatto. Però per dire, chi nasce con questi codici e non è contaminato da questa visione universale del uno parla e tutti ascoltano, automaticamente trova le vie di fuga nella sfera privata. Perché? Perché poi in realtà in questi famosi schermi che 1000 studi scientifici dimostrano che abilitano l'odio, il sessismo, le cose peggiori, è vero, per carità, funziona, è anche vero, però su questi meravigliosi schermi in realtà quello che irrompe è la vita reale, non delle persone, ma dei, soprattutto dei ragazzi. Cioè la TV non deve temere lo YouTuber, la TV deve temere molto ma molto di più la vita reale che i ragazzi stanno costruendo su questi schermi. Tra l'altro la vita reale, e lo ripeto 1000 volte perché c'è anche questa dicotomia, i mondi virtuali, continuo a sentire, il mondo reale, riemerge persino nelle fanpage che sembrerebbero... No, cioè uno vede tutte queste milioni di fanpage, soprattutto su Instagram, dedicate alle star degli adolescenti, Ariana Grande, Miley Cyrus, Justin Bieber, vedi queste cose e dici, vedi, sono di nuovo completamente in ginocchio nei confronti delle major. Errore, perché vai a vedere i commenti e parlano di domani c'ho gli esami, non ho fatto un cazzo, aiutami, passami i compiti, cosa dice tua madre, cioè parlano della loro vita nelle fanpage, però intanto hanno stabilito che vogliono avere a che fare con persone che sentono vicine a loro, perché? Perché sono anche loro fan di Ariana Grande. Si tratta da quello, esatto, mentre magari ai genitori non interessa. No, ai genitori non interessa. Io vedo un grande paradosso tra il fatto che l'incensare veramente una star di YouTube sia poi effettivamente andare nel mainstream della televisione, e dall'altra parte che la televisione che dice internet è il male assoluto poi prenda la Clio Makeup per dirne, per andare ad attirare quel pubblico lì nel suo mezzo che ha un altro target, perché la Gruber sta parlando non a me probabilmente ma a mia madre, da cui non riesco a capire come la stampa può superare un paradosso nel quale l'internet vuole sempre comunque andare lì, perché sembra che il vero obiettivo sia il mainstream, come l'obiettivo dei blogger era, e al contrario odiare un mezzo che però in realtà è l'unico modo per attirare questo tipo di pubblico. Allora guarda, osservazione molto interessante. In realtà è l'unico modo, l'unico spioncino dal quale noi stiamo vedendo oggi questa ibridazione verso una nuova cultura popolare, una nuova cultura pop, che è molto diverso da dire, come mi dice Maurizio Codogno nella sua recensione, bel libro, però sono molto più pessimista di te, le persone non vogliono in realtà una maggiore conoscenza, quindi è normale che si rivada verso un nuovo eterno mainstream. E certo, guarda che non stiamo andando verso una internet che alla fine ci renderà tutti più colti e più intelligenti, stiamo andando verso una nuova cultura popolare, ma la chiave è che è nuova. Cioè, se abbiamo una nuova cultura pop, dei nuovi linguaggi in televisione, lo dobbiamo anche a questa ibridazione che fa morti e feriti, nel senso che c'è chi completamente, una volta che sale là sopra, sembra di nuovo la satira di prima, mi viene in mente appunto, mi dispiace dirlo, il terzo segreto di satira, se vedete i primi episodi, vedete ciò che va sulla sette adesso, c'è un abisso. E invece poi ci sono... per non parlare dei brand che li fanno ancora peggio, cioè la scala... Sì, ma se guardate Gazebo, una trasmissione come Gazebo era impensabile se non fosse passata attraverso il direttore content, come si chiamava, di Excite. Sì, tra l'altro Gazebo è uno dei pochi esempi di un formato che poi si è evoluto, ma che all'inizio è stato preso dalla rete così com'era e trasmesso in televisione, proprio perché era talmente forte, talmente potente. Cioè, questi sono comunque, funzionato... scusa, sono gesti coraggiosi. Anche isolati, se vuoi. Isolati, però... quello che vuoi, però... Anche coraggiosi, cioè... rari. Sì, sì. Sì, indubbiamente rari, però se tu guardi, in realtà c'è un'evoluzione della televisione verso... gli anni verso, diciamo, le serial TV all'indietro, cioè penso a Santoro ha innovato tantissimo il contenitore di approfondimento facendo arrivare le piazze, cioè lui aveva cominciato a vedere le invasioni barbariche con queste dirette di gente con gli striscioni che protestava, e poi c'erano i politici in studio, dicevano oddio la massa, che diciamo a questi, e questa cosa funzionava. Samarcanda, vi ricordate? Avendo capito che questo somigliava allo scontro di oggi, no? Della folla, della gente con 2G, Santoro ha fatto un grosso passo indietro, perché ora, se tu guardi gli inserti dei suoi talk show, sono docu-fiction, con un lettore che ha la voce impostata, la musica drammatica, eccetera. Quindi non diamo per scontato che nuovi linguaggi diversi significhi necessariamente nuovi linguaggi. Noi vediamo anche linguaggi diversi che sono passi indietro. La TV in realtà sta vincendo tantissimo, la TV, ma parlo proprio di TV, dove riesce a farti fare di nuovo un investimento emotivo in un racconto. Quindi Netflix, che è secondo me televisione, se non lo possiamo dire benissimo, ok? È televisione, chiaramente usa un'altra piattaforma tecnologica per distribuire, è televisione senza palinsesto. Senza palinsesto, però cosa fa? Riesce a farti fare investimento emotivo in un racconto. È l'unica cosa che riesce a farti scappare per un attimo da Candy Crush, da FIFA 18, da Snapchat, da Instagram Stories, che sono... È la narrazione che sta vincendo. La nuova grande narrazione. Sì. La nuova, lì bisogna togliersi il cappello. Anche se Mafia è un'altra idea sulla nuova narrazione emergente. Sì, ma ci porta un po'... Okay. Un po' fuori strada, perché Cioè, è una mia curiosità su perché continuiamo a avere dei limiti di formato su un mezzo che non ha limiti di formato. Cioè, perché continuiamo a fare le puntate di 45 minuti, i libri di 300 pagine, gli articoli, quando, cioè, lo so perché, perché appunto c'è la pubblicità e c'è il... Ma anche perché sono però più progettabili. Neanche, neanche gli autori indipendenti riescono a svincolarsi da quello che è un limite autoimposto, come la sindrome dell'impotenza presa, perché tu hai imparato che una cosa non si può fare e non ci provi più. Però rispetto a quello che dicevi tu, Paola, secondo me dobbiamo anche fare attenzione a guardare tutto il quadro, perché è vero che ci sono tantissime voci in rete, talenti che vogliono fare il salto nel mainstream, però secondo me ce ne sono anche tanti che non, che appunto li vediamo meno, perché un po' per la dinamica che in piccolo ho io a lui, secondo me avete anche voi, cioè moltissime persone non ne vogliono sapere di finire nel ventilatore. Sì, però tu non vedi che se, cioè, il vero riconoscimento di successo ancora continuiamo a darlo quando ha visto in televisione, nonostante tutto questo. No, allora è fortissima questa cosa, però secondo me è una cosa sì, è una cosa che vale ancora veramente per poche persone, perché e significa anche essere dati in pasto a una dimensione pubblica che è veramente un tritacarne. Ma che non... tu dicevi giusto, cioè uno dei pochissimi formati che è sopravvissuto al cambio di mezzo senza fare una piega, più o meno comunque... più o meno restando e... Posso fare una osservazione? La considerazione del riconoscimento del ruolo che ha il successo è legato alla monetizzazione. L'unico strumento di monetizzazione è il mainstream. Perché tutta la balla che ci siamo raccontati nel 1993, nel 1995, nel 96, che le nicchie le avremmo sfruttate, la coda lunga, sono balle. Cioè i soldi arrivano dal mainstream. Quindi il motivo per il quale Guglielmo Scilla va a fare un serial su Rai 1, prima serata, dove ci sono morti ammazzati, sofferenza e praticamente libero cuore, è perché viene pagato in quella maniera. Perché il ruolo che avevano tutti gli youtuber romani, De Pizza, il gruppo che si era riunito attorno a Scilla, sono andati verso quello che era la monetizzazione. Quindi noi stiamo facendo un ragionamento che è estremamente elitario, bellissimo, fantastico, ma non tiene conto di quello che è la, il fatto di mantenere la pagare. Io pago moltissimi youtuber per fare gli youtuber, cioè secondo me questa cosa non è più così tanto. Sì, ma infatti cioè, è vero questo elemento, però non è vero che guadagni solo nel mainstream. Ma soprattutto non è vero, non è vero che la leva, non è vero che la leva è sempre solo il guadagno, cioè ci sono tantissime persone. Vabbè, questo è il momento, no, il momento vero, in cui Pavolini dà il meglio di sé, noi lo amiamo. No, aggiungo anche un'altra cosa. Non... Nel libro, magari nei primi tre capitoli, si dice chiaramente che tutta questa cosa che dici tu è sacrosanta, cioè che gli user generated content non hanno scalfito di un millimetro il business. Perché la metrica finanziaria perché è rimasta uguale. Sì, la metrica è rimasta la stessa, ma soprattutto ciò che veramente sconvolge e fa paura alla televisione mainstream, per usare quello che hai detto, è il passaggio della delega della funzione editoriale, cioè non è lo user generated content, è lo user generated decisione di che cosa fare del content, sia che venga direttamente dalla televisione, dallo show business, sia che venga altrove. Quando tu vedi che il palinsesto è costruito in modo autonomo, è questo che spaventa. Perché le grandi industrie lineari, no, della televisione, che funzionano come delle catene di porter, partono dall'idea che saranno sempre loro a impacchettare tutto quanto, così come il giornale di carta è convinto di saturare tutta la tua necessità di informazione dalla prima pagina all'ultima pagina di un quotidiano. Ma Flipboard invece ti dimostra che non è questo ciò che le persone necessariamente vogliono, ed è quello che sconvolge il meccanismo. No, ma non sto dicendo, adesso non sto facendo il discorso utenti di Flipboard, utenti dei giornali. Scusa, le metriche in qualche modo determinano. Perdona, la metrica è il furto d'attenzione, e non lo dice uno che ha scritto Oltre l'umore, lo dice Carlo Alberto Carnevale Maffè, che sa benissimo che il terrore che hanno le televisioni non è, oddio, adesso qualcuno farà un sacco di soldi che non faremo più noi, non è Netflix. No, è, oddio, gli occhi delle persone si poseranno altrove. È questo il problema, cioè non c'è un nuovo Eldorado. c'è semplicemente un grande buco che è un buco per loro. E questo buco, io quando facevo l'analista di business e vedevo, oddio, quest'anno 9 miliardi di pubblicità è il mercato, l'anno scorso era 10, va bene, scriviamolo nel piano industriale. Bellissima questa analisi che hai fatto, Pavolini, però tu hai preso dei dati di info provider che noi non abbiamo mai usato. Che è questo Screen Digest? Che cos'è questo Zenith Optimedia? No, no, usa la roba di Nielsen. Prendevo la roba di Nielsen e tornavano a essere 10 miliardi. Però perché Sanremo adesso arriva a fare il massimo della è scritto nel libro. Non è un libro. Che non è un libro. Cioè, Sanremo l'abbiamo resuscitata noi, parlandone sui social tutti i giorni, altrimenti moriva. Perché gli occhi si posano altrove. Però questo significa che alla fine il mainstream... Ma certo, è il mainstream che riesce... Ma nessuno dice che il mainstream sia finito, ma... o che sia interrotto, però sta inglobando una serie di cose. Però doveva fare una cosa. Esattamente 6 anni fa, nel 2011, Sanremo fu probabilmente in Italia il primo grande evento di social TV, diciamo così. E mi ricordo ancora il tweet di una amica comune ricercatrice, che mi è rimasto impresso: Sanremo è hashtag Sanremo. Questo era ancora il 2011. Invece, per quello che riguarda è vero che fino a un certo punto, nel senso che in alcuni casi funziona il mainstream, però non per tutti. Ci sono alcuni casi che per tutta una serie di motivi e circostanze, perché fatto in quel modo la novità funziona. Però ci sono tante. Cominciano ad esserci sempre più esempi di membership, di un gioco duro di affezionati a quel tipo di rapporto, disposti a pagare per quello, che diciamo non hanno nulla a che invidiare. Diciamo, con la mia esperienza è che sono condizioni di fidelizzazione a un termine, che poi ad un certo punto si esaurisce il meccanismo, non c'è quella coda lunga che ma anche il scilla quando non è più l'unico a veicolare quel tipo di messaggio, secondo me poi mi sbaglierò, è destinato a calare. Sì, ci sarà il nuovo scilla. No, infatti il discorso è che quelli che venivano dal mainstream hanno utilizzato gli strumenti, diciamo prima, utilizzato gli stessi strumenti per veicolare se stessi e il loro messaggio, eccetera, eccetera, semplicemente con gli strumenti che avevano inventato qualcun altro. Guarda Luca, però... ti faccio una domanda io a te, ma lo sai, l'80% del tempo trascorso da un lobbista che lavora in una televisione, dove lo passa? Forse al caffè Sant'Eustachio davanti al Parlamento, dove si incontra con i decisori che stabiliscono l'ordine dei canali del digitale terrestre. Cioè la causa, cioè, quando Floris andò sul 7, all'inizio perse improvvisamente 2, 3, 4 milioni di telespettatori e sembrò che, ok, allora ha vinto Balarò, cioè quello con Gianni. Questo per farti capire che se, come dire, lo sforzo evolutivo dell'industria televisiva se loro sanno che possono muovere il 30% degli introiti pubblicitari, perché di questo stiamo parlando, semplicemente perché le persone che guardano la TV hanno il riflesso di premere il 3 invece che premere il 7, è tutto lì il dibattito, no? Ok, se vai negli Stati Uniti, la TV, anche i vecchietti, la vedono col decoder Comcast, non vedono più NBC, ABC, CBS e Fox come prima, 1, 2, 3, 4. No, vedono una schermata dove se la mattina in una mail hanno detto andiamo alle cascate del Niagara, gli appare un documentario sulle cascate del Niagara. Ok, allora non è possibile che noi siamo gli unici che abbiamo capito tutto e negli Stati Uniti non hanno capito niente. Forse sarà anche che siamo un paese che ha una demografica molto molto diversa. E allora questo di per sé non può giustificare il fatto che tutti gli youtuber poi cercano di andare in TV. Io sono molto felice che gli youtuber abbiano successo andando in TV, perché è l'unico modo oggi con cui riescono a contaminare il linguaggio televisivo. Per il business ci vorrà molta, molta pazienza. 3 capitoli su 4 di quelli che ho scritto all'inizio finiscono con "ci vorrà molta pazienza". Sembra... noi l'abbiamo finita la maglietta. Sì, non... quando c'è stata l'invenzione della stampa a caratteri mobili, non è che improvvisamente tutti i monaci benedettini hanno perso il lavoro perché non c'era più bisogno di trascrivere le opere, no? Oggi pensiamo di poter dire: ah, vedi, internet è stato un bluff, oppure la coda lunga è una cazzata. Non è vero, la coda lunga è stata un'incredibile esagerazione, così come nel libro di Chris Anderson, che addirittura poi la esportava sul modello della grande distribuzione, ti ricordi, usciva anche dal digitale leggendo quel libro, e finiva per essere anche un po' ridicolo. Però se vai a vedere con che contenuti Netflix ha fatto soldi dal 2005 al 2018, vedi un grafico che somiglia molto a quello della coda lunga, no? Chi è poi alla fine che è sopravvissuto? Chi è che sta facendo i soldi veri adesso? Amazon, coda lunga, con i prodotti, e poi anche entra nel video. Netflix, sono questi quelli che fanno soldi. Con questo, cioè, io adesso, infatti, vorrei invitarvi tutti nella la villa, sì, a Martha's Wineyard, perché mi avete comunicato le vendite l'altro giorno, quindi siete tutti invitati. No, ne approfittando per dire che tutto dipende da dove cominciamo ad analizzare la storia. Cioè, se 5 anni fa ci avessero detto che dei ragazzi italiani avrebbero avuto 6 milioni di visualizzazioni su YouTube, dai, avremmo riso, non era pensabile. Avremmo pensato c'è qualcosa che ci sfugge. No, infatti, ma l'avremmo detto che oppure avremmo detto stanno era... copiando la televisione, stanno facendo Maria De Filippi. No, ma faccio un altro discorso, cioè lui dice l'unico modo per... detto che non c'era la demografica per fare... che non c'era il pubblico, che non c'erano i mezzi, cioè che ci possano piacere o no, Terzo Segreto di Salsa, eccetera, eccetera, sono delle produzioni professionali. Avremmo detto non c'è il talento, non c'è la professionalità. E quindi prima di dire che non c'è un mercato per i fan, che è quello di cui stiamo parlando, cioè io aspetterei ancora un po', ma anche senza pazienza, nel senso che qualche segnale cominciamo a vederlo. Non ho detto che non c'è il mercato dei fan, ho detto che adesso quello è lo sbocco, perché quello è il meccanismo di monetizzazione, e di tutti i formati che abbiamo inventato su internet non abbiamo inventato ancora quello della monetizzazione. Esatto. Però c'è già però cominciano a esserci dei segnali abbastanza precisi, interessanti. Cioè, anche in Italia ci sono delle newsletter a pagamento. Ma i book vengono pagati con il meccanismo tradizionale, non è cambiato nulla. Aspetta, Luca, torniamo indietro. In Italia non c'è Revision 3. Ok, negli Stati Uniti una televisione completamente fatta con un palinsesto completamente diverso da internet è una cosa che ti puoi trovare se hai un abbonamento a Verizon o a Comcast. Cioè, negli Stati Uniti paghi una sola bolletta ogni mese, da $230 a $250, e usi il tuo operatore telefonico per farlo. Dentro c'è il gas, c'è l'acqua, c'è il telefono, e poi c'è la televisione, che la fanno loro, sempre. Ok? Questo è un po' diverso, no? Rispetto a noi, mi sembra evidente. Cosa trovano lì dentro? Revision 3 o Dave Letterman. Questo fa dei numeri spaventosi per Revision 3, finché quando accendi la TV da noi vedrai sempre Rai 1, Rai 2, Sky al massimo, Mediaset Premium, eccetera. È ovvio che l'unico meccanismo di monetizzazione sarà quello che dici tu, però ci sono degli ostacoli all'entrata ancora molto molto grandi. Però scusa, in Italia lo stiamo seguendo perché abbiamo messo il canone nella bolletta. È il contrario, diciamo. No, l'altra cosa che io non ho detto bene nel libro, e mi dispiace, la specialità del caso. Guarda che puoi riscriverlo, loro sono contenti. È tardi. No, la specialità del caso, una critica che mi è stata fatta è: sì, ma l'Italia in realtà succede la stessa cosa che succede negli Stati Uniti. Non è vero, perché da noi oggi succede che RCS ora compra Ureport, cioè il vecchio medio compra quello nuovo. Mondadori compra Banzai. Questo succede nel 2016-2017 in Italia. Negli Stati Uniti questa cosa fallimentare l'hanno fatta 15 anni fa con, spoiler, però. Con AOL Time Warner, te lo ricordi? E invece ora hanno capito ed è Amazon che si compra il Washington Post. Ed è Comcast che si compra NBC, Vivendi e Universal Pictures. Cioè è il contrario, è il nuovo medium che compra il vecchio perché sa organizzarlo sui nuovi ecosistemi. Finché ancora da noi Banzai, che sono i più bravi, ok, italiani in assoluto, se li compra subito, la prima cosa, il massimo che possono sperare è farsi comprare da Mondadori. Ma voi sapete come, cioè lo sapete, tu lo sai come fa soldi Mondadori. Quanto potranno andare avanti? C'è questo... l'ha accogliato lei. No, c'è questa startup che si chiama Cassa Depositi e Prestiti, che secondo me ci potrà... No, però sempre no. Per chiudere il discorso del tempo, che è un discorso a cui tengo molto, io in questo momento sono abbonata a una newsletter italiana che mi costa 9 euro al mese e un'altra italiana che mi costa 2 euro al mese e... ho smesso e a pagina 99 formato digitale in abbonamento, quindi cominciamo ad avere dei segnali concreti, nel senso che non credo di essere l'unica abbonata, perché ci andremo al bar. Quella newsletter di 9 euro al mese è richiama molto il newsgroup degli anni passati. No. Certe dinamiche di commento sui prima almeno. No, no, no, è una newsletter di formazione professionale. No, no, no, però che... dico, ciò che ha creato è una community poi sì. Legata a quella newsletter. Ha creato una community che è come le altre dopo, community, però il motivo per cui mi sono abbonata è perché ho, mi dà delle, informazioni come si compravano i giornali, no? È interessante quello che c'è, si che c'è scritto dentro. Della giornata. Sì, però questo è interessante legato al discorso del tempo, perché lui ha citato due aziende che hanno iniziato negli anni 80, cioè Netflix all'inizio mandava i DVD per posta a casa delle persone, Banzai, i fondatori di Banzai erano i signori di Virgilio che hanno iniziato nel 95 a fare queste cose. Ci vuole un sacco di tempo, cioè, lui dice errori. Ci vuole pazienza, molto più tempo che per scrivere un articolo di giornale che dice sono morti i blog, le app hanno ucciso il web, Facebook era nuova. Scrivere un articolo così ci mettiamo 20 minuti tutti qua dentro. Per questi processi ci vogliono veramente decenni, come dice giustamente Mafe, che è più o meno all'inizio della mia frase. Sì, come dice giustamente Mafe, si trovare anche un acronimo. È depennata, Però abbiamo delle cose su cui litigare. La gente che lavora su queste cose da molto tempo, abbiamo citato Diego Bianchi, abbiamo citato Banzai, alla fine sono quelli, Netflix, che nel 1980 era una specie di blockbuster. La stessa Amazon ci ha messo un sacco, Amazon ci ha messo, scusa, sì, pronunci bene, Amazon. Ha ragione lui, mi hanno spiegato che si dice Amazon, ma io continuo a dire Amazon, scusate. Perché sei romano. È vero. La provincia, dobbiamo litigare un po', sennò non viene. C'è una cosa che secondo me che è veramente centrale nel libro, che non è ancora venuta abbastanza fuori, che è il tema del dominio dell'agenda dominante, cioè ciò di cui le persone parlano. Questo ancora è larghissimamente nelle mani dei media e nessuno, anche dei più evoluti, diciamo così, utilizzatori di internet, sta muovendo un dito per spostarlo di un millimetro. Perché la cultura è lenta. Perché la cultura è. Però, perché dico che gli Stati Uniti sono diversi da noi e che ci indicano la strada e ci fanno capire quello che potrebbe succedere da noi tra 20-30 anni? Il bene e il male. Il bene e il male, drammaticamente. Perché negli Stati Uniti, io sto facendo un esempio nel male, quando arriva una rivoluzione tecnologica, per esempio la radio digitale, negli Stati Uniti improvvisamente tutti hanno cominciato a sentire la radio, perché prima la radio erano queste country station, no? affiliate della CBS, oppure c'era l'NPR, eccetera, però non cambiava l'agenda della discussione. L'agenda era dei grandi network delle coste. Poi è arrivata Fox, è arrivata anche l'agenda del Midwest. A un certo punto che succede? Succede che tutta questa gente che passa le ore in macchina a traversare questi stati scopre che è possibile sentire 300.000 canali completamente nuovi. All'inizio tutti musicali, di nicchia, no? Si pensava che quello sarebbe stato il business, perché non c'era prima lo spazio per fare tutti questi canali. A un certo punto arrivano tutti questi talk radio che vengono immediatamente invase dal pensiero Theo Kohn, dal pensiero di destra, eccetera, quindi Pat Buchanan, che erano degli avanzi della CNN, diciamo, precedente, perché CNN si stava spostando a sinistra. O'Reilly, esatto. Improvvisamente trova cittadinanza mediatica, un pensiero che non era più liberal e che ha prodotto nel tempo tutta una massa di americani ignorati completamente dai telegiornali. E dall'agenda, cioè hanno fissato una nuova agenda politica, nuove cose di cui si è cominciato a parlare dall'oggi al domani, l'immigrazione dal Messico per esempio. Però vedi che quello è un segnale che non è stato captato? O era rumore? Era stato considerato rumore? Ma guarda, non lo so, segnale, rumore. Sì, perché è troppo tardi per parlare del nostro rumore da questo punto di vista, di quello che è successo in Italia, quindi l'elefante nella stanza, Movimento 5 Stelle, l'ho detto. No, però per dire, era un'esternalità tecnologica. Improvvisamente c'è il pluralismo. Voi sapete cosa è successo quando tecnicamente è stata possibile la radio digitale in Italia? Cosa è successo? È stato creato un club dei 20 editori di radio, di network, che avevano già occupato tutta la modulazione di frequenza, che col preciso obiettivo di impedire quello stesso pluralismo che si è creato negli Stati Uniti, ha creato il multiplex, ha occupato tutti gli spazi, e quindi oggi, se tu ti doti di una radio digitale, lo puoi fare, c'è il DAB, ascolti 30 versioni diverse, tutte uguali, di RTL, 30 versioni diverse di Radio Monte Carlo, 30 versioni diverse di Radio Kiss Kiss, perché hanno occupato tutti gli spazi. Cioè, la reazione dell'industria nostra di fronte all'esternalità tecnologica è stata... nessun problema, ci mettiamo d'accordo e nessuno potrà... Difesa posizionale, direbbe, sì. Guardiola. Sì, sì. Guardiola, esatto. Sì, sì. Vedete, questo è un elemento differenziante, clamoroso, tra il nostro... Ma perché da noi non esiste un mercato dei media. Se vediamo come funzionano i centri media, la raccolta pubblicitaria, siamo in un sostanziale monopolio. C'è un bellissimo articolo di Lelio Simi, un brano di questo articolo è riportato nel libro, che racconta che se l'unico modello funzionante è nelle mani fondamentalmente di due soggetti, questi possono organizzare tutto l'ecosistema e prolungarne la vita fino alla pensione di Lilli Gruber sicuramente. Andrea, sei l'unica persona di cui io mi fido sul tema radio, tu sei d'accordo? Voi l'avete fatto apposta a metterlo proprio alla fine. Sì, perché... no, diciamo che ha accolto sicuramente nella conclusione del discorso di Antonio c'è il nocciolo della nostra diversità o della loro diversità, adesso. Che poi voglio dire, Berlusconi, Trump l'abbiamo avuto prima noi per certi versi, quindi, siamo i migliori, siamo avanti appunto, da certi punti di vista siamo avanti, no, che negli Stati Uniti c'è un mercato, perché dal punto di vista di piattaforme, di tecnologie, tutto il fenomeno talk radio che ha diciamo che si è sviluppato prima dei due mandati di Obama e che poi durante questi 8 anni ha compiuto una formidabile traversata del deserto e ha reso possibile quello spostamento di voto negli stati critici per Trump. Ecco, tutto quel fenomeno talk radio ha meno a che fare con la radio digitale che conosciamo noi, perché la radio digitale che conosciamo noi in Europa è molto diversa da quello che c'è negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è stato un grande boom di radio digitale satellitare che ha imposto effettivamente un modello di business, quello della pay radio, che era totalmente sconosciuto e su cui inizialmente scommettevano in pochi, tanto che poi è un mercato che è decollato quando si sono resi conto che non c'era spazio per due operatori, ma c'era, sì, Sirius, XM e Direct. Ecco, Sirius e XM hanno poi fatto fatto un merger e lì allora è veramente decollato. Stiamo parlando di milioni di abbonati, gente che dà $20 al mese, milioni di persone danno $20 al mese. E lì sostengono un mercato di coda lunga, perché sono centinaia di canali, molti musicali, molti ancora adesso. Ma tornando al talk radio, al fenomeno politico del talk radio, la leva tecnologica in quel caso è stata addirittura una tecnologia completamente morta, la radio in modulazione di ampiezza, che ha sorpreso moltissimo tutti gli osservatori. Il talk radio, quindi Trump, è nato su un mezzo, che poi rappresenta l'alba dei media elettronici. Certo. Effettivamente in questo Naf parlava di compresenza e di nuovi mezzi che non fanno altro che spostare su altri piani o su altre dimensioni i media precedenti, e in questo caso abbiamo assistito a un ritorno che nessuno si aspettava. Le radio in modulazione di ampiezza sfigate, pubblicitariamente morte, sono state pompate dai megafoni della talk radio, grazie tra l'altro a precise ingegnerie regolamentari, perché è un fenomeno che è cresciuto perché negli Stati Uniti è stata cassata ogni normativa sulla par condicio, per esempio. Ma probabilmente erano anche gli unici spazi che non erano presidiati perché ritenuti obsoleti. Assolutamente. Quindi di fatto sono, è uno spazio. Sono stati tutti superati da destra, sinistra, sotto, sopra, e si sono ritrovati con un potente motore di generazione di malcontento, di rabbia, di distrazione di massa su tematiche che non contro le sofferenze, nulla. Il nuovo modello di business è, ancora una volta, nessuno si aspetta la Inquisizione spagnola, fondamentalmente. Va bene, questo... Avrete spazio ancora per 20 domande, non di più perché è un po' tardi. Qualcuno vuole anche... Ma... Noi abbiamo un'altra presentazione tra sì, poco. Sì, adesso andiamo a presentare il libro di... Che ti avevi detto tu? 5 minuti a mezzanotte. Sì, sì. Sì, esatto. Altre domande non ce ne sono. Hanno tutti fame. Saremo da commentare. Saremo da commentare. Va bene. Bene, grazie. Grazie.